ci sono delle tappe molto importanti, quelle del Col du Galibier, ci sono le tappe di Tre Cime di Lavareto, quindi secondo me è un giro disegnato molto bene. Sì, lo stiamo facendo, primo, secondo quasi sempre, e questa è la linea per provare a vincere il mondiale. Il gruppo è fantastico, mi stanno mettendo a loro agio e io sono veramente contento adesso. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanelli, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, così come sottoscritto, avevano tenuto in un cassetto una canzone sperando di non farla riascoltare nel corso di questo giro, una canzone estremamente appropriata che mi riporta agli occhi lucidi di Armstrong, a quella confessione che fece così tanto rumore. Ebbene, l'abbiamo dovuta tirare fuori. Maledetti loro, dal cassetto. I want the truth from you. Give me the truth, even if it hurts me. I want the truth. Nella vita si cresce, no? Si capisce quali, se uno fa degli errori, quali sono stati, capisce che il mondo comunque dove si appartiene cambia, in questo caso il ciclismo, quindi è un mondo che sta cambiando, che è cambiato, e io mi sto adeguando, quindi è stato un voltare pagina, un ripartire da capo, perché il ciclismo è cambiato. Sono tornato perché sono convinto di poter ancora dare tanto al ciclismo, non solo a me stesso, perché comunque io i miei risultati li ho ottenuti, ma anche a chi è più giovane, a chi comincia ad essere un professionista che magari ha 21, 22, 23 anni, e con la mia esperienza, e questo anche Schmil in questo mi ha dato tanto, mi sta aiutando tanto con la mia esperienza, stare vicino ai giovani, insegnare loro poi il mestiere. Speriamo di non gliel'abbia insegnato il cattivo maestro. Di Luca, bugiardo, no? Mi sembra nella logica dei fatti. Queste dichiarazioni sono state rese dopo, ricordate, 2009, secondo posto, tappemente al giro, beccato positivo alla cera. Stavolta invece si torna a parlare di quel vecchio arnese, almeno pensavo che fosse un vecchio arnese, che è l'eritropoietina. Pieragusto Stagi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E allora, noi gli mettiamo la canzone I Want the Truth from You, ma insomma, la verità tanto non ce la raccontano, bisogna beccarli e sbatterli fuori. Lo diciamo da tempo, Carlo, lo ripetiamo ormai in maniera quasi ossessiva, è una litania. Poi te lo dico anche perché la storia che si ripete probabilmente già lunedì, martedì comincerà il pietismo, il buonismo, ma in realtà c'è da fare punto e a capo. Il doping ci sarà sempre e non è questo lo scandalo. Lo scandalo è continuare a dare seconde possibilità. Bravo, sono d'accordo. Invece, sono d'accordo. Non c'è possibilità di redenzione. Non deve esserci. Se combattiamo una battaglia, valgono anche le pene draconiane, no? Se combattiamo una battaglia così dura, allora bisogna combatterla con armi anche molto violente. È uno stato d'emergenza, negli stati di emergenza si reagisce con leggi speciali. Mi dispiace, il ciclismo sta facendo tantissimo, però probabilmente non è tutto, manca questa cosa. Ma io arrivo al punto addirittura di non solo non farli più tornare a correre, non devono più mettere nel mondo del ciclismo. E cosa intendo per il mondo del ciclismo? Anche le aziende, gli sponsor, il mondo che alimenta questo movimento bellissimo, devono capire che queste persone devono rimanere alla larga. Invece poi non ci sono aziende che stanno aiutando a poverino Riccardo Riccò per fare le gran fondo, per portarli in America. Di Luca tra un po' sarà nuovamente perdonato, ma poverino, cosa avrà mai fatto? Cosa avrà mai fatto? Sta mettendo in ginocchio per l'ennesima volta, anzi ha messo per l'ennesima volta in ginocchio uno sport che stava trasmettendo emozioni uniche, aveva attirato sulle strade montagne di spettatori, sì. Forse abbiamo visto poche montagne per la neve, ma montagne di spettatori sì. Nibali al momento ci aveva entusiasmato, sta onorando la corsa, e a questo punto con la sua azione, con questa bellissima azione, sta mettendo un velo di dubbio su tutti. Certo, ma perché poi tu immagini, parlavi di montagne, adesso sono le valanghe degli ascoltatori, dei messaggi, eccetera, eccetera, le solite valanghe che si staccano e vengono giù. Ma come, ci credete ancora? Ma ci credevate ancora? Ma sono tutti drogati? Ma fate ridere? Sì. Sai, e allora alla fine cosa rispondi a costoro? Io ci provo, anche oggi, non ho paura, metto nel metto, 800240024, perché il ciclismo è uno sport che mi sta nel cuore. Poi però la difesa diventa sempre più difficile, ti dico la verità, le difese diventano sempre veramente più difficili. Un'ultima cosa per Augusto, al di là del caso di Luca, che si è detto sorpreso, non so da che cosa, per la verità. Sorpreso che si era andati a fare un controllo a sorpresa a casa sua il 29 di aprile. Io ero sorpreso di vederlo andare così forte con soli due giorni di corsa nelle gambe. Sì. No? Però ormai io credo che il doping sia assolutamente una questione di dipendenza, una questione mentale. Questi atleti non sono capaci di fare alcunché senza ricorrere a un illecito. Io credo che facciano i superuomini anche con le loro fidanzate drogandosi. Questa è la verità e questo è il messaggio che purtroppo passa, no? Non sopportano l'idea di vivere una giornata col mal di testa o col mal di schiena, come capita a me, come capita a molti normali che hanno delle giornate storte, si svegliano e si sentono assolutamente rotti e vorrebbero starsene a letto, invece loro no, non possono concedersi una giornata di pausa. Certo. Io queste persone le allontanerei per sempre, senza pietismi, senza pietà. Sicuro. Perché io questo sport lo amo, mi diverto da morire a seguirlo, è uno sport che ti coinvolge e ti pone storie bellissime da raccontare, e quando in realtà poi ti continuano a ucciderti il sogno, non è che dà fastidio, io vado in bestia e parlo da tifoso. No, no, ma chiaro, stiamo tutti e due parlando da tifosi, Pier Augusto. Allora abbiamo il traffico, io ti saluto, domani altra tappa in dubbio, oggi cancellata, non succedeva dall'89, domani sarà molto difficile, insomma. No Carlo, te lo posso già dire, intanto la tappa di domani dovrebbe esserci, saranno cancellati il Costa Longa, il San Pellegrino e il Passo Giao, però la partenza sarà da Silandro e faranno di tutto per portare il giro sulle tre cime di Lavaredo, che a questo punto diventerà la vetta, la cima Coppi di questo Giro d'Italia. Quindi saranno cancellate tutte le montagne intermedie, partenza da Silandro e arrivo alle tre cime di Lavaredo. Questa è una comunicazione ufficiale appena data, perfetto, appena emessa dalla RCS Sport e da Mauro Veni, che è il direttore organizzativo della Corsa Roma. Grazie Pier Augusto. Tutti convocati. Dunque, Luca Scinto, direttore sportivo della squadra di Danilo Di Luca, ha detto semplicemente: è un idiota, gente come lui è gente malata, licenziato in tronco. Mentre altre parole ha avuto Michele Acquarone, direttore generale di RCS, sentiamole. Posso soltanto dire che questa mattina il ragazzo mi ha chiamato dicendomi scusa, però io, più che pensare che abbia veramente dei grossi problemi, lui come uomo, non come sportivo, che chi se ne frega dello sportivo, ma come uomo, perché vuol dire che è un'abitudine che possiamo definire molto vicina alla tossicodipendenza. E quindi avete sentito, un drogato, no? Piero, provincia di Ascoli Piceno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Riguardo a Di Luca, credo che questo abbia fatto un danno per l'ennesima volta più grande dell'opera che ha fatto Nibali e tutti i ciclisti che hanno corso correttamente e non si sono drogati, non hanno fatto EPO, non hanno fatto pratiche illecite. E secondo me Di Luca andrebbe internato in un istituto di malattie mentali, come tutti coloro che ricadono per una seconda volta, perché è impossibile che teniamo ancora in piedi questa gente e vogliamo farli ancora gareggiare, avere pietà. La pietà sì, ma la pietà per un ammalato. Esatto, poi un ammalato. Sì, sì. Bisognerebbe schiantarlo. No, bisognerebbe che per i fatti suoi, da uomo che ha dei problemi, prendesse delle misure e delle conseguenze. Quello che dico io è che bisogna smetterla con la ora, bisogna smetterla con la, insomma, con la seconda chance, perché se o liberalizziamo tutto per i professionisti e allora prendiamo una svolta pericolosa, rischiosa, una discesa su cui rischi la testa del collo, oppure dall'altro lato pedaliamo in montagna e chi becchiamo lo squalifichiamo a vita. La radiazione non deve arrivare dopo la seconda positività, ma a questo punto, come si diceva prima con Pier Augusto Stagi, legislazione di emergenza, perché sennò così è comodo ed anche proficuo dal punto di vista economico, perché uno sta fermo 2 anni, come nel caso di Luca, squalificato nel 2009, torna, poi dice quelle fesserie di so come ho imparato adesso, voglio aiutare, mettere la mia esperienza a favore dei miei giovani compagni di squadra, dei ragazzini, ma speriamo che non l'abbia fatto. Luigi da Brescia. Sì, Carlo, buongiorno, grazie per avermi convocato. Sempre. Voglio intervenire anche io a proposito di Luca, sì. Perché è incredibile che un corridore del genere, che si suppone comunque una persona intelligente, a parte il danno che ha fatto al mondo del ciclismo, che è enorme, ma che non riesca a rendersi conto che quello che è successo oggi mette in ginocchio un'intera squadra. Ci sono persone, massaggiatori, meccanici, direttore sportivo, compagni di squadra, eccetera, che probabilmente prima della fine dell'anno, sì, o comunque al massimo alla fine dell'anno, rimarranno senza lavoro, perché quando ci sono questi casi gli sponsor dal ciclismo scappano. Sì, gli sponsor dal ciclismo scappano, sì, scappano, poi altri ne ritornano, questo sì è un problema che esiste, è un problema collaterale, c'è anche molta ipocrisia in giro e c'è stata soprattutto in passato un sacco di ipocrisia, perché poi arriva il direttore sportivo di turno e dice, non sto parlando di Scinto, che ha detto Di Luca neanche lo volevo, però insomma esce il direttore sportivo di turno e se ne lava le mani con il sapone, no? Ah, hanno preso questo bastardo criminale, arrogo, licenziato in tronco. Ma tu non sapevi niente? Tu non sapevi niente? Possiamo tornare a parlare della tanto aberrante responsabilità oggettiva? Forse non adesso, forse non ora, non qui, però un discorso di questo tipo si potrebbe fare, perché sennò poi diventa davvero, davvero troppo comoda. Dunque, adesso lasciamo Di Luca alle sue sorprese, lasciamo Di Luca ai suoi problemi, e lasciamo Giro d'Italia oggi senza tappa e salutiamo Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Da calciomercato.com, lasciamo stare storie, quest'altra storia di doping che mi apre un'altra ferita, però fa niente, dai, non facciamo i melodrammatici. Dimmi invece, qual è il destino di questi 3 allenatori? Perché io dopo una settimana ancora non l'ho capito. Con cosa è stato mescolato il caffè di Allegri? Non lo so che cosa sia stato mescolato. Sicuramente Allegri sta diventando come Mitridate, il mitologico re capace di assuefarsi alle piccole dose quotidiane di veleno, perché francamente tutto si poteva immaginare fuorché un epilogo così malinconico della storia fra il tecnico livornese e il Milan. Tecnico livornese che in 3 anni ha vinto uno scudetto, la Supercoppa di Lega, è arrivato al secondo posto e quest'anno al terzo, pur avendogli la società raso al suolo l'organico in estate. Quindi in qualunque altra società sarebbe rimasto al proprio posto. Invece mi pare che anche lo striscione esposto dai tifosi del Milan stamattina in Via Turati sia stato significativo. Sì. E non condivide affatto la scelta di Berlusconi. Non vogliamo Seedorf comparsi. Hai il diritto di scegliere che vuole, però sappia che cosa va incontro. Sì, ci sono anche. Sicuramente è ancora un giocatore del Botafogo e lo sarebbe anche l'anno prossimo. Mm. E poi non ha nessuna esperienza. No, questo è chiaro. Di una squadra e poi da ultimo, particolare non irrilevante, non gode evidentemente di un consenso popolare massiccio. Sì, poi sappiamo che ci sono vari rapporti di potere, di influenza, ci sono anche rapporti tesi tra Galliani e Berlusconi, c'è una curva, c'è questo rapporto tra Galliani e Allegri che invece è molto solido, così come è solido il rapporto tra Galliani, Allegri e la curva. Insomma, ci sono delle dinamiche strane all'interno del Milan, anche se magari sottaciute. No, sai, la situazione, se lo simoro è consentito, è molto chiara nella sua complessità. Qui ci sono, come dicevi tu, Galliani, i tifosi, la squadra, da Balotelli ad Ambrosini a Montolivo, che ha dedicato il terzo posto proprio ad Allegri, schierati per la conferma di un tecnico che peraltro è sotto contratto fino al 30 giugno 2014, quindi non è un avventizio. E dall'altra parte c'è Berlusconi che per tutta una serie di motivazioni che oscillano, dal rimprovero per aver ultimamente messo El Shaarawy in panchina, quando lo vedrebbe anche un non addetto ai lavori che, stante la grande stagione del ragazzo di 20 anni che si ha anche 16 gol in campionato, è normale che accusi una pausa di rendimento ed è normale che Allegri lo mandi in panchina. Poi ad Allegri Berlusconi rimprovera di non avere marcato a uomo Messi nella gara d'andata di Coppa dei Campioni, meno male che questa l'avevamo già sentita da un'altra parte. Senti, poi gli rimprovera ancora l'anno scorso di avere bruciato Thiago Silva nella partita con la Roma, determinando la sua assenza in Coppa dei Campioni. Insomma, ci sono diverse motivazioni che spingono Berlusconi a questo passo, ma la principale è che Allegri non lo ha scelto lui. Due cose molto rapide, direttore, due cose molto rapide, in un minuto: quando Mazzarri verrà annunciato all'Inter, e poi questa mattina, come ben saprai, c'è John Elkann, che mi sembra la voce più forte della Juventus, che dice: Jovetic forte, va preso, senza parlarne troppo. Beh, allora, io penso che Mazzarri sia soltanto una questione di giorni, se non di ore. Una questione di rifinitura del contratto, che dovrebbe essere almeno triennale. Questo chiede il tecnico ex Napoli, che si porta dietro tutto il suo staff, peraltro così bravo da ridurre a un livello fisiologico il numero degli infortuni, esattamente l'opposto di quanto è accaduto all'Inter in questa tribolata stagione. Elkan dice ciò che pensa lo stato maggiore della Juventus. Io continuo a pensare che non sia Jovetic il primo giocatore che la Juventus debba prendere, con tutto il rispetto per il talento del Montenegrino. Io credo che sia Robben il giocatore che Conte desideri. Mi rendo conto esistano difficoltà oggettive legate alla valutazione dell'olandese, soprattutto anche alla difficoltà di arrivarvi. Però Jovetic in un 4-3-3, che è il modulo cui tenta Conte insistentemente, anche perché recupererà Pepe, secondo me avrà difficoltà ad adattarsi al ruolo di esterno, ma ovviamente poi mi sbaglierò sicuramente. Grazie direttore, buon lavoro e buon grazie viaggio. Grazie a voi, è stato grazie. Un piacere come sempre, buona giornata. Grazie a Savia Cobelli da calciomercato.com. Dunque, ci fermiamo per la borsa? Sì, e poi torniamo. Sì, 800240024. Oggi anche una bella pagina di basket che ci sta tra playoff italiani e quelli americani. Le è mai venuta la tentazione di cambiare Allegri e si vede ancora Allegri nel futuro del Milan, anche per l'anno prossimo? Il presidente del Milan deve dire sempre la verità. Passiamo alla prossima domanda. Tutti convocati. Allora, noi vi diamo anche, lo so che volete i pronostici, dai, lo so, ma mi prendete in giro, ma io me lo merito e poi ve li faccio anche sulla serie Roma Cantù. di playoff che comincia questa sera. Allora vi diamo anche le indiscrezioni, perché è giusto così. Dicono che dicono Di Marzio da Sky, solito molto ben informato, dice che l'esonero a Stramaccioni è stato comunicato. Dunque, questo vedremo se... Male, male, ma vuole bene, bene, male, bene. Male, male, male, un disastro. vedremo se uscirà la notizia ufficiale. Intanto io continuo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Ivo Venezia. Carlo, buongiorno, grazie buongiorno. Per la convocazione. Grazie a te. Allora, due cose velocissime. La prima è una riflessione sull'Olimpia Milano. Io credo che da 103 a 79 di gara 1 siamo riusciti ad arrivare a gara 7 giocando Olimpia Milano contro Moss, Hackett e Brown. Sì. Quindi tre batte Olimpia Milano. Aggiungerei Sani Kidze. Ecco, ok, quattro battono Olimpia Milano in una rinascita completa di Siena, anche se in realtà siamo stati in grado di resuscitare un morto, e poi alla fine va così, e i giocatori e lo staff, a mio modestissimo parere, dell'Olimpia Milano hanno vissuto quello che purtroppo si vive nel calcio, la presunzione di superiorità, e questo è il risultato. Non lo so se sia stato questo, certamente Milano va alla sbarra. Well, now they gave him his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao Coach Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Milano alla sbarra, come si dice in America, sul banco degli imputati, no? E la giuria, sì. La giuria questa stavolta sarà, la giuria popolare questa volta sarà molto cattiva, non perdonerà più niente. Sì, ovviamente è una stagione che vorrebbero rifare, ma non riescono proprio. Ma lei, Carlo, se mi dai un secondo vi dico che in ogni stagione c'è un momento chiave, ok? Io mi ricordo il mio ultimo, non parliamo di due anni fa, ma 86-87, la partita con Aris, Salonica, avessimo perso, diciamo, il doppio confronto, eliminato lì, io sono certo che non avremmo fatto il Grand Slam, sarebbe stato veramente più o meno come quest'anno qua per Milano. E Milano quest'anno ha avuto lo stesso momento, più 17 a vittoria contro Kaya Laboral, hanno lasciato sfuggire questa partita per un rimbalzo alla fine, avessero preso un rimbalzo difensivo, era meno uno, Kaya Laboral tirano, loro sbagliano, rimbalzo, chi lo prende? L'ha preso Lampe di Kaya Laboral, altra azione, canestro, e vanno a vincere la partita, che per me ha cambiato la faccia della stagione di Milano. Non, ovviamente sì. Non abbiamo la controprova, ok, però è stato per me, per loro, secondo me, un colpo assolutamente devastante. Sì, coach, però la differenza è che tu avevi una grande squadra con dei grandi giocatori che tenevano attributi e che ne avevano dimostrato vincendo e perdendo per tanti anni. Questa non è una squadra. Well, ovviamente fanno le valutazioni su questo adesso, cioè, i risultati sono questi, perché è chiaro, quando tu vieni eliminato, primo turno dell'Eurolega, primo turno della Coppa Italia, primo turno dei playoff, cioè, ci sono le valutazioni sulle le scelte che sono state fatte, questo è matematico, ok? Quindi cioè, si può anche citare diverse cose. Io ho letto anche adesso le parole di Flavio Portaluppi, cioè, ripartiamo dal talento di Gentile e anche io potrei aggiungere Melli, ok, che per me Melli ha fatto dei grossi progressi, sì. Quest'anno è molto più maturo e lì secondo me un piccolo nucleo con il quale loro possono veramente costruire attorno. E poi ho letto Fossi torno a Panathinaikos, scaduto il contratto, e su tutti i siti internet, quindi ci saranno ovviamente dei grandi cambi, perché la faccia dei risultati che purtroppo, o bene o male, ogni allenatore, ogni giocatore, ogni società è schiavo, come dico io, di risultati, e questa è la legge dello sport, Carlo, non ci sono, certo, storie. Pensi che sia finita la storia di Scariolo? Non chiedermi di speculare su questo, Carlo, ok, quindi perché essendo collega io, nel senso non sono più allenatore, però mi sento sempre collega di loro, eccetera, mm-hmm. cioè, so cosa sta soffrendo, ogni allenatore soffre ogni anno e certamente Scariolo sta soffrendo oltre ogni limite adesso, okay? Quindi non voglio speculare su questo assolutamente. Senti, invece ti chiedo due cose tecniche, coach, sempre su Milano. Allora, il ritorno di Langford ha modificato degli equilibri che sembravano funzionare come avevamo visto nelle prime gare. Punto primo, Basile, NE tutte le volte in partite come queste, io dicevo ieri, perché non poteva essere utilizzato come Becirovic viene utilizzato da anni, cioè per fare il killer nei momenti chiave? Queste sono ovviamente due osservazioni che oggi sono sulla la bocca di tutti, cioè, è chiaro, io l'avrei fatto ritornare a Langford, okay? Ti dico la verità, okay? Poi alla fine del fiera non è funzionato, però non puoi lasciare il tuo miglior attaccante, forse insieme a Gentile il miglior giocatore della squadra fuori, perché è stato fuori per infortunio, ovviamente anche lui è andato in America per una cosa, ci sono diverse attenuanti a queste cose qua, però purtroppo Carlo hai ragione che quando lui è tornato hanno perso un po' di smalto, è tornato per gara 4, sì. Ok, contro Siena, quella che ho perso a Siena e poi hanno vinto gara 5, poi perso gara 6, perso gara 7 e Langford è un giocatore difficile da inserire, questo è poco ma sicuro, però se il tuo giocatore è lui il punto di forza, quello che può recuperare un pallone, può fare un canestro da tre, può subire il fallo, fai tiri liberi, io l'avrei fatto rientrare, sì. Purtroppo non è funzionato, questo è poco ma sicuro. Per Basile, cioè, ovviamente è una domanda legittima, perché uno a Basile in squadra si può anche pensare a questa scelta tecnica e dovrei anche sentire quello che dice Scariolo su questo, certo. però è chiaro che ovviamente hai Basile in squadra è proprio per quel motivo. Certo, un'ultima cosa invece, coach, dedicato a quelli che continuano a fregnare, non ci sono giocatori italiani, siamo poveri, siamo brutti, siamo piccoli. Io ho visto Hackett l'altra sera distruggere Milano, ho visto Datome, miglior giocatore del campionato, visto Polonara, insomma, non siamo proprio così sfigati, Il bicchiere è messo pieno, te lo dico, io sono, è tempo che dico, la nuova generazione di giocatori italiani fa ben sperare per la nazionale. Hai citato Datome, 25 anni Datome, ok? Ma perché gioca una vita in Serie A sembra di aver di più, ok? Mm. Gentile, Melli, Di Nicolao, Polonara, Cinciarini, cioè Aradori, questi sono protagonisti, gente che parte in quintetto base in campionato, tanti complimenti a loro e ai loro allenatori, alla loro società che li fanno giocare a diventare protagonisti. Se io sono Simone Pianigiani, allenatore della nazionale, sono felice per vedere questi ragazzi emergere e credimi, questa nazionale quest'estate che ha fatto 8-0 l'anno scorso qualificandosi per gli europei di quest'anno, quindi 2-13 in Slovenia, sì. E lui ha un nucleo di 12 giocatori, vai a aggiungere questi Melli, Gentile, sì. De Nicolao, Polonara e chissà chi eccetera, quindi è per me un quadro che comincia a essere felice per la nazionale. Io torno a dirti, Hackett l'altra sera, sai chi mi ricordava? Hackett, sai chi mi ricordava? Mi ricordava Hackett. Ti ricordi Antonello Riva quando aveva 18 anni e vi distrusse in quelle tre partite, famose tre partite? Come potenza, non ha il tiro di Antonello Riva, però guarda, mi sembrava di vedere quella potenza. Carlo, io esagerando come faccio io per spiegare. Lui in piccolo, ok, piccolo e non allo stesso livello, per la moglie dice, è un po' come LeBron James, se lui mette la spalla, cioè LeBron James 2-5, Hackett 1,95, quello che è, eccetera. Ma se lui, come LeBron, mette la spalla in contatto con il corpo del difensore, quel difensore non può più fermarlo. Cioè proprio, e non dico sfondamento, non dico fallo, no, per tutto legale, ok? Sì, sì. Però lui è talmente forte fisicamente che quando lui va dentro c'è poco da fare e di più. Lui che è mancino è più bravo andando a destra, sì, per concludere, quindi sì, è una forza e per Simone Pianigiani questa è una grande notizia. La grande notizia, grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao coach Peterson, intanto stasera si balla si comincia a ballare con Roma Cantù e poi domani vedremo la prima tra Varese e Siena. tutti convocati. Alberto, eccoci, 800 24 00 24, per far sentire la vostra voce. Alberto, buongiorno. Sì, due cose molto veloci. Innanzitutto, va bene, io ho visto Milano giocare contro Varese, l'ho vista anche in Coppa Italia, e mi permetto di dire una cosa: Milano è sempre stata una squadra presuntuosa e senza un'anima. L'anima è data sempre, a mio modo di vedere, nel basket da un asse, playmaker, pivot. Guardiamo Varese, Green con Dunston, poi il resto li puoi cambiare, una volta gioca bene Polonara, una volta Aero, una volta Banks, ma l'asse deve essere fisso. A Milano Scariolo è stato capace di dire che Coop era il miglior playmaker che aveva avuto, non l'avrebbe mai cambiato. Era una squadra inguardabile, non aveva mai un'idea, e vanno a prendere Green. Buonissimo giocatore, ma da squadre dal quinto all'ottavo posto. Ma cioè, Green comunque di tutti quelli che sono passati per Milano in questi anni è quello che comunque aveva maggior attitudine al playmaking, era il più playmaker di tutti, se vogliamo. Sì, e, ma e non quindi, per vincere un campionato. Ma magari non per vincere il campionato. Io continuo a pensare, insomma, l'asse play pivot ho dei dubbi che esista ancora, perché anche perché di centri che spostano non ce ne sono nell'NBA, figuriamoci qua. Il discorso è la leadership anche tecnica di una squadra. L'altra sera abbiamo visto una squadra con leadership tecnica. Moss in questa stagione ha giocato una grande stagione, è stato anche importante dal punto di vista realizzativo. Hackett è ormai da tempo che ha in mano questa squadra. Brown è un terminale offensivo importante. Dunque, Siena sa dove andare. I go to guy sono quelli, sanno, ci sono certe gerarchie. A Milano io alla fine leggo il tabellino e vedo Erston 10, Langford 14. Allora, qual è l'uomo da cui andare per vincere la partita? L'abbiamo visto l'altra sera, quello di Siena era chiaramente Daniel Hackett, inarrestabile. Quello di Milano dov'è? E non l'ho visto quest'anno, non l'ho visto l'anno scorso, non l'ho visto quello prima, e continuo a ripetere questo. Sono tutti medio-alti giocatori con ingaggi spesso da superstar, però non vedo nient'altro in Milano. È questo il discorso. Natalino. Sì, pronto, buongiorno Zeta. Buongiorno. Sì, è la prima volta che chiamo, ho detto, però ma voglio sì, dire una proviamo. Cosa velocissima. Dica. Io sui nuovi emendamenti che ha proclamato la FIFA in questi giorni sulle leggi, sulle punizioni per i ragazzi negli stadi. Mm-hmm. Ecco, a me personalmente mi trovano d'accordo, perché se non c'è un messaggio forte da parte della FIFA, questi cori, tra virgolette, chiamiamo le razziste, non termineranno mai. Sì. Poi bisogna fare una distinzione tra i cori e i cori razzisti, perché tra i giocatori dico, perché io prendo l'esempio di Seedorf negli anni al Milan, ne ha subite di tutti i colori, però da giocatore esemplare ha prima pensato al bene della squadra, no? E quindi si è comportato da professionista, lasciando stare e concentrandosi sulla partita. Un carattere diverso. Seedorf non era certo uno che si faceva intimorire da quattro imbecilli, non è mai stato un giocatore di questo tipo, ma neanche Muntari lo è. Cioè, ci sono quelli che tu vuoi muggire dalla tua stalla, e io ti dimostro che sono un giocatore che farò di tutto per ricacciarti il muggito in gola, mettiamola così, se no mi vengono delle cose, delle espressioni più scurrili che non è il caso di andare a spolverare adesso. Invece spolveriamo i playoff NBA dopo quelli italiani. Più due match, la partita si accende, la serie decolla. Il palleggio per Michael Jordan è a spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Michael Jeffrey Jordan! Ecco, proprio lui, Flavio Tranquillo. Michael Jeffrey Jordan, dopo aver visto LeBron James l'altra sera, il primo pensiero che ha avuto è: si è tolto la scimmia dalla spalla e adesso fa così. E ce l'aveva un po' sul gozzo questo scouting report, ovvero sia queste osservazioni che Jordan aveva fatto dicendo basta mandarla a sinistra e tira sempre in sospensione. Sì. Ovviamente poi non è esattamente come la racconta Jordan, ma non è esattamente anche come la racconta James, che peraltro ha fatto un movimento strabiliante, tecnicamente strabiliante. Se poi lo applichiamo a uno così grosso in quel momento, sotto quella pressione, sulla mano debole, siamo veramente nel campo dell'irreale, del teoricamente irreale. E questo ha cominciato con il teoricamente irreale, perché adesso si sente davvero l'uomo del destino, si sente davvero quello che può vincere e può ricacciare in gola ai detrattori tante cose, no? Dopo quell'anello che si è messo, appunto dopo il gorilla che è andato via, si sente davvero quello che può in certi momenti fare quello che abbiamo visto fare a Jordan. Sì, basta vedere la faccia subito dopo il tiro, era una faccia, esatto, come dire, ma perché, esatto, non sarete mica stupiti, cioè, ma... è tutto normale, no? Non lo sapevate che finiva così? No, non lo sapevamo e non lo sapeva neanche lui. Sì, certo, applausona indiana, eh? Applausona indiana. È super applausone, bisogna che vedano la parte che è oggettivamente, non per condirsela su mezza piena del bicchiere, cioè hanno giocato oggettivamente male, ma veramente male male male, come direbbe Abbatantuono, e se non l'avevano quasi vinta c'erano vicino, quindi giocando un filo meglio possono veramente dare una serie a Miami. San Antonio 2 Memphis 0 questa notte su Sky, mi sembra 2:30, no? Gara 3, se non ricordo tra Miami Indiana, però sì, no, tra Miami Indiana, tra Miami Indiana, giusto, gara 2 tra Miami e Indiana questa notte 2:30. Dall'altra parte invece gara 2 c'è già stata, San Antonio 2 Memphis 0. Che Memphis abbia finito la corsa o è presto? Secondo me, se Randolph non ha delle limitazioni fisiche e o emotive, la serie comincia in gara 3. È difficile onestamente pensare che in due stagioni consecutive gli Spurs perdano quattro partite all'interno delle ultime cinque, addirittura lo scorso anno le ultime quattro allo stesso punto della stagione, quando questo è successo pochissime volte in assoluto nella storia dei playoff. Però se Randolph sta bene, c'è talmente materia per fare degli aggiustamenti tecnici e coinvolgerlo nella serie. In più, a partire da Gasol, tutti avranno un vantaggio nel giocare sul campo di casa psicologicamente, sì, come presenza, come coraggio, eccetera, eccetera. Io credo che anche quella sia una serie totalmente in essere, 2-0 o 0-2 che sia. Sì. Grazie Flavio, alla prossima, ti abbraccio. Grazie Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo questa puntata del venerdì. E anche questa settimana di Tutti Convocati, senza dimenticare che domani dalle 5 alle 6 c'è il magazine da non perdere. Intanto c'è anche un flash sul sito della Gazzetta di 14:45, ve l'avevamo detto prima, l'Inter esonera la Stramaccioni, manca solo l'ufficialità, però ho l'impressione che in giornata ce l'avremo questa ufficialità. C'è anche un'ultima ora su Sky, Inter, Andrea Stramaccioni esonerato, dunque a questo punto mi sembra che possiamo chiudere questo programma dandovene la certezza. Stramaccioni ormai l'ex allenatore dell'Inter. Ci sei cascato, scemo. Ah no, non sto scherzando. Grazie Franco Piantarida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani. Lei è esonerato. Glielo dico io. Lei ne è sicuro? Sì, sì, sono sicuro, è sollevato dall'incarico. Lei non è più l'allenatore dell'Inter. Non hanno il coraggio di dirlo, insomma, in qualche modo bisogna pur farlo. Ci mettiamo una mano sul cuore, lei è esonerato. Va bene, aspetti un attimo che... Allora, per cortesia, mi prepari la valigia. Metti le mutande nella stuccia a sinistra, invece le canottiere nella stuccia a destra. Poi facciamo le scarpe, no? Così avviso un attimo a casa. Tutti convocati.